Visionari su Radio Onda Rossa, come ogni giovedì, oggi 29 agosto del 2013, dalle 14 alle 15 torniamo dopo la pausa estiva. Come dicevo poc'anzi, le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, tutta la scaletta di quest'oggi, e oltre a questo i nostri riferimenti internet sono anche su Facebook, sempre con visionari. Per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica, visionari@ondarossa.info. Diamo inizio a questa puntata di inizio di nuova stagione. Allora, primo collegamento di quest'oggi con Max Mazzotta, regista del film Fiabeschi torna a casa, uscito in sala lo scorso giovedì 22 agosto. Allora Max, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Come stai? Bene. Intanto ti chiedo com'è andata questa prima settimana, se hai già qualche dato. No, non so nulla, non so niente. Sono adesso in questo momento sono in una piazza di un bel paese e mi sto godendo, come dire, il pomeriggio. Oh. Allora, Fiabeschi torna a casa, ma più in generale Fiabeschi torna sul grande schermo dopo qualcosa come 11 anni, giusto? Sì, esatto. Allora, raccontaci un po' di questa avventura. No, sono dei percorsi un po' particolari, un po' strani, perché di solito comunque riprendere magari un personaggio di un film che magari è uscito tanti anni fa, cult, eccetera, sono sempre operazioni difficili. Sì. Però in questo caso io ho fatto un'operazione un po' diversa, perché ho preso questo personaggio di Pazienza e anche del film, chiaramente, perché sono due cose un pochino diverse, e gli ho dato una vita propria, gli ho dato una storia, per cui ho fatto un'evoluzione di questo personaggio. Per cui è stato divertente giocare su questa cosa qua, e l'intenzione chiaramente era quello di fare un film leggero, divertente, si spera. Io la chiamo un po' una commedia poetica, perché comunque narra delle vicende di questo personaggio che ritorna al sud dopo vari fallimenti al nord per riscoprire un pochino se stesso. Quindi diciamo che è un ritorno a casa, ma è come fosse un ritorno interiore, no? Un ritorno alle proprie origini, quindi al proprio passato, per cui è un momento anche di riflessione che lui fa, e chiaramente nel film non è che si percepisce in maniera chiara, cioè nel senso che è una cosa che è un percorso interiore che poi si vede alla fine, cioè nel senso nel seguire tutto il film e nelle sue scoperte, perché infatti lui fa sta scoperta che la casa è dentro di noi proprio per questo motivo, no? Che è una cosa interiore, insomma, la casa è quel posto, la dimora, no, dell'anima, diciamo. Sì. E quindi insomma è un po' questa la metafora del film. Poi il film vive di espedienti, ecco, di espedienti quotidiani, cioè non c'è una storia precisa, sono tante storie che lui vive in sei giorni della sua di questo soggiorno a sud, e quindi ho voluto raccontare un po' la quotidianità. È chiaro che in questa quotidianità chiaramente succedono tante cose, non è che sempre tutte cose devono essere straordinarie, no? Perché una persona può anche vivere delle cose normali, che però possono diventare straordinarie proprio perché fanno parte di una quotidianità, ecco, certo, normalissima. Certo. Questa è un po' l'idea del film. Poi se si è arrivato o meno, questo poi dipende dal pubblico. Diciamo. Allora, intanto ti faccio anche i complimenti, perché io avevo visto l'anteprima stampa, come avevo apprezzato anche Paz. Io sono un cultore poi dei fumetti di Andrea Pazienza, so che non è per niente facile trasporre sullo schermo, e secondo me il risultato invece è degno insomma di grazie. quello che ho bisogno. Senti, allora volevo anche chiederti a questo punto, Andrea Pazienza è un grosso nome del fumetto italiano, ma anche internazionale. In lui il fumetto raccoglieva anche molto dell'immaginario cinematografico. Il percorso inverso invece, dal fumetto al cinema, come dicevamo prima, è complesso. Ecco, come ti sei mosso in questo senso, Max? Guarda, come dici tu, è vero, sono sempre operazioni difficili, soprattutto in Italia, ti dico, perché in Italia il problema è questo, che nel momento in cui magari ti metti a fare un personaggio appunto un po' sopra le righe, no? Sì. Che magari appunto va un po' sul fumetto, c'è sempre una situazione un po' strana, perché siamo abituati, no, a come dire, abbiamo un vizio di fondo che è il vizio dell'equilibrio, no? Che peggia anche giusto, e questi sono anche discorsi che sono un po' difficili, però poi alla fine è un vizio tutto italiano. Io non capisco perché magari in America alcune commedie americane o magari qualche attore americano cioè sono dei personaggi che con le facce fanno di tutto, insomma, ma compreso anche Robert De Niro, per dire, no? Beh, per dirne uno che è un grandissimo attore, però cioè nella sua espressività, no? È un'espressività corporea, di tutto il fisico, di tutta la faccia, degli occhi, di tutto. Stessa cosa, noi abbiamo avuto dei grandi comici tipo Totò, per esempio, che era una macchietta tra virgolette, ovviamente, sì, sì. E che abbiamo avuto un patrimonio da questo punto di vista, però è come se in un certo senso queste cose qua vengono sempre un pochino, no, messe, cioè siamo un po' resti, no, ad accettare un po' il grottesco, no, o un pochino, diciamo, non dico caricatura, però quel sopra le righe, no, che un po' ti fa riflettere, perché è chiaro che l'esagerazione su una cosa è sempre una metafora di qualcos'altro, per cui bisogna sempre andare a guardare un po' questo. Poi è chiaro che il fumetto è come dire, c'è una cultura del fumetto che deve seguire determinate regole, anche se Andrea Pazienza alcune regole ovviamente le ha come dire, superate, ecco, certo, in un certo senso, perché certo. Lui è un artista completo, quasi sì. un artista vero, ecco, sì, in questo sì, senso sì, io sì. Non lo chiamerei neanche fumettista, capito? Perché non solo era un grande proprio artista a livello pittorico, a livello del disegno, ma anche una persona che ha raccontato la vita quotidiana di quei momenti, che non c'era internet, non c'era la televisione libera come adesso, cioè, e c'erano questi fumetti che raccontavano la vera quotidianità, quindi cronaca sì. del momento, fatto però in maniera ironica, e quindi cioè, diciamo che il film o il personaggio che va nel film purtroppo a un certo punto deve cercare un equilibrio, e che è un equilibrio dovuto proprio a un linguaggio diverso che è il cinema. Io ho cercato di tenere un po' questo equilibrio, ovviamente tra il quello che può essere, no, il grottesco, oppure il comico di un certo tipo, quello che può essere magari anche la realtà e quella quotidianità e la verità di un personaggio che poi acquista, insomma, se si riesce a far acquistare l'equilibrio della verità, del verosimile al personaggio, allora diciamo che l'operazione è riuscita. Ovviamente bisognerebbe andarlo forse più a paragonare, per come cioè paragonare, insomma, a capire un po', per esempio noi abbiamo un Fantozzi italiano che diciamo è un personaggio, ecco, sopra le righe, ma anche i film di Fantozzi erano, diciamo, abbastanza sopra le righe, diciamo quasi fumettisti, no? Perché comunque, no, c'erano dei suoni, dei rumori, delle cose assurde, no, che succedevano, delle cose allucinanti a Fantozzi, diciamo. E lo abbiamo accettato tutti, Fantozzi, perché nonostante sono dei film, no, uno può dire filmetti, no, nel senso film leggeri o così, però raccontava la metafora di un'Italia, raccontava un personaggio, no, che è con delle tragedie vere, che però si raccontavano ridendo. Ecco, io diciamo che non ho neanche tanto voluto raccontare la tragedia o la commedia, io ho voluto fare una cosa un po' diciamo un po' diversa, ecco, un po' poetica dal punto di vista proprio del linguaggio e della storia, ecco, di dove questo personaggio che era fuori a Bologna, fuori da tutto, no? Disadattato da tutto, e qui anche nel suo posto natio diventa anche un po' disadattato, no? Anche lui, perché non viene capito e lui non capisce, per cui è una condizione umana che magari è, come dire, anche pesante, no? Da certi punti di vista, ecco. Ecco, proprio a proposito del paese natio, sì. Andrea Pazienza pugliese, tu esatto. calabrese, qual è il tuo sud rispetto anche a questo modello, Max? qual è il mio sud? Ovviamente essendo del sud, cioè è chiaro che il sud me lo porto dentro, quello è chiaro, cioè è una cosa che è una anche Andrea Pazienza, è normale, questa è una cosa che anche se si va in America, no, le proprie radici interiori non si lasciano mai, come dicevo prima, sì. Per cui il sud è chiaro che è questo, il sud è tutta una serie di cose. Io ho cercato di non cadere nella retorica, ecco, ho cercato il più possibile di non fare retorica del sud, delle cose. Infatti sono, cioè, è un affresco il sud per me a quel punto, no? Diventa un cielo, diventa un sapore, delle dinamiche dei personaggi, diventa la famiglia, diventa i rapporti, diventa un'interiorità il sud. Ecco perché io l'ho raccontato in maniera ho cercato almeno, questo poi ripeto non sta a me, anche se poi gli artisti sono i primi critici di se stessi, è normale che io posso diciamo fare una critica su me stesso, ma poi non spetta a me, no? Spetta al pubblico andare a fare le proprie conclusioni. Da questo punto di vista. Però ecco, questo sud è questo. Ora è chiaro che una volta si andava via dal sud perché no, le prospettive che non c'erano, no? E allora si andava al nord, oppure si andava proprio fuori, no? Dall'Italia all'estero, eccetera. Poi c'è stata una controtendenza, quella di ritornare, perché, anzi, è attuale, diciamo, questa controtendenza, perché diciamo in famiglia si sta meglio. Cioè, per cui si è meno. Cioè, ci si accontenta, ecco, in un certo senso, allora si ritorna, no, per dire vabbè, le ambizioni non ci sono più, una generazione ha fallito. Effettivamente è vero, una certa generazione ha fallito, anche se adesso si ritorna di nuovo a uscire fuori, ma neanche in Italia, fuori all'estero, perché le opportunità purtroppo mancano, e manca proprio quella spinta per i giovani che hanno della vocazione. Non dico, io non voglio fare la retorica dei giovani, è una questione semplicemente di un alimentare la propria vocazione. Sì. Se poi uno non riesce ad alimentarla, poi la vocazione spinge, e poi dopo si sta male, non si dorme la notte, sì, che ne so. Cioè, bisogna accontentarla questa vocazione, ogni tanto bisogna darle da mangiare, questo è il problema. E magari al sud si trovano delle dinamiche, dei problemi che sono un po' diversi dagli altri, questo sicuramente, anche se si sta cercando di reagire. Ecco, io sono uno di quelli che comunque ci vive al sud, per cui cerco di reagire all'interno, più che andare fuori e puntare il dito, capito? Sì. Senti Max, a proposito di generazioni, ecco, Andrea Pazienza ha dato vita a personaggi di culto, e volevo chiederti, oggi a distanza di decenni, continuano ad avere una loro attualità? Cavolo, se c'è una loro attualità, ce l'hanno, ed è la cosa bella, è proprio questo. Io mi ricordo quando ho fatto pazzo, ho fatto l'esame per esempio all'università, che ha avuto, no, la sua storia anche dopo il film, no? Come scena, come momento clou, no? Cult del, non solo del film, ma anche ovviamente del fumetto, ecco questo. E quella storia che era un danus degli anni che furono. E gli studenti di oggi si sono identificati, ecco, la cosa dell'identificazione è molto importante, perché se anche oggi si identificano in quelle dinamiche, vuol dire che certe cose non sono cambiate, niente da fare. Anche certi ragionamenti, certi pensieri poi non cambiano. Allora, a distanza di 40 anni, capito, ci sono delle cose che ancora non si sono proprio sradicate in noi. E noi siamo un paese vecchio dal punto di vista, non che è vecchio di secoli di età, no, è vecchio nel senso che delle generazioni, chiaramente, per poter evolversi, io ho per esempio 45 anni e ancora devo evolvere, no, da certi punti di vista, anche se dentro di me, però è chiaro che sento no, un'evoluzione già passata, no, in un certo senso, però dal punto di vista proprio dell'esterno, di quello che viene fuori, è un problema, no? Perché poi magari si riesce ad arrivare a dei risultati, per fare un esempio, a 70 anni, poi è chiaro che alla fine ci comandano, alcuni dicevano i morti, io dico un po' i vecchi, insomma, senza nulla togliere alla saggezza dei vecchi, per carità, sì. Però c'è bisogno proprio di un ringiovanimento proprio di idee, di non so come spiegarti, ci vuole un cambio repentino di alcune dimensioni. Spero che questi nuovi mezzi di comunicazione, questo nuovo modo di avere a che fare l'uno con gli altri, spero che porti a qualcosa di positivo, anche perché, però, capito, anche lì è un problema. Sì. Perché se penso per esempio all'uso del mezzo tipo internet per vincere le elezioni, per esempio, no, come fece il 5 Stelle, che è stato un esempio, no, come per dire, sul web noi possiamo comunque arrivare, no, a determinati risultati. Questo è anche vero, anche perché ci sono dei numeri che sono virtuali all'interno del computer, e magari questo non corrisponde alla realtà, però esistono, ci sono. Però se Beppe Grillo, diciamo, no, non fosse andato piazza per piazza a parlare con la gente, io non lo so se il risultato sarebbe stato lo stesso. Quindi non bisogna cullarsi del fatto che siamo nella piattaforma virtuale e quindi tutto va secondo come questo. No, bisogna purtroppo mettere insieme, purtroppo per fortuna, mettere insieme anche l'opposto, cioè andare nei posti porta a porta, cioè essere presenti anche nei luoghi. Quindi è un esempio quello, non perché io sia un simpatizzante 5 Stelle, analizzo la cosa, quindi e penso che sia un insegnamento questo, non tanto l'uso del web, ecco, diciamo, ma tanto l'uso dell'insieme delle cose, cioè il web, ma anche però l'opposto, cioè andare porta a porta fisicamente. Questo penso che sia la cosa migliore. Dopodiché, sai, siamo in Europa, l'Europa è grande, cosa vuoi che ne frega all'Europa magari di un paesino del buco del culo del mondo, insomma, scusami il termine, cioè, capito? Però sì, purtroppo il paesino lì può dire la sua e può essere una cosa importante nel microcosmo, nel micromondo, che può essere una cosa, come dire, ecco, anche lì possono svilupparsi delle vocazioni e possono essere grandi vocazioni, capito? Sì. Max, è stato un piacere. Allora, ricordiamolo, Fiabeschi torna a casa, è uscito in sala lo scorso giovedì 22 agosto, ancora in sala, anche qui a Roma, ho controllato, è ancora in programmazione. Sì, al Jolly alle 10:30 di sera, al Jolly di Piazza Bologna. Sì. A Roma, e il 5 settembre sarà a Bologna, però non so quale cinema ancora, da lunedì si saprà il cinema. Va bene. Io comunque la voglio rimandare i radioascoltatori a questa pagina di Fiabeschi, che è la pagina Facebook, diciamo, che benissimo, casa il film, chi vuole, insomma, lì avrà delle informazioni, e spero lunedì sapere il cinema di Bologna dal 5 settembre. Bene. A Cosenza pure il 5 settembre sarà la prima. Allora tienici informati. Un abbraccio, Max. Un abbraccio a te, grazie a tutti. Ciao. Bene, ieri è cominciata la 70esima edizione della mostra cinematografica di Venezia. Noi, come sempre, seguiamo gli autori di film e documentari che attraversano la mostra. In particolare seguiamo due sezioni parallele, che sono le giornate degli autori, giunta alla decima edizione, e la settimana internazionale della critica. Adesso ne parliamo con Giorgio Cosetti, che è delegato generale proprio della decima edizione delle giornate degli autori, dal 28 agosto al 7 settembre. Giorgio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ma grazie a voi. Vocazione marginale per entrambi? No, non è vero, finisce che siamo molto centrali, perché in fondo un sacco dei giovani talenti del cinema passano per la settimana della critica, le giornate degli autori, quindi sì. Tutto sommato non ci sentiamo ai margini del palcoscenico. Allora, facciamo una panoramica a questo punto delle opere che state presentando all'interno delle giornate. Ma noi non abbiamo ovviamente la vocazione soltanto di occuparci delle opere prime, e quindi ne abbiamo effettivamente 7 su 15 film quest'anno, 7 più 2 eventi speciali stanno alla settimana della critica, quindi certo molto giovane cinema passa da qua. Noi siamo regalati quest'anno il gusto della preapertura, che è una cosa quasi di mülleriana tradizione, e l'abbiamo dedicata al giovane cinema italiano con L'arbitro, opera prima di Paolo Zucca, con Stefano Accorsi, J.P. Cucciari, ma anche degli straordinari protagonisti della scena sarda come Benito Urgu. E poi andremo a chiudere con una commedia, se apriamo in commedia chiuderemo in commedia, che è Tres Bodas de Mas, film spagnolo. Dopodiché in mezzo c'è veramente, io credo, un po' di tutto, dallo scandalo annunciato, che spero non sia tale, nel senso che è lo scandalo della bellezza del film di Bruce LaBruce, Gerontofilia, che abbiamo presentato ieri insieme a un'opera prima, La Belle Vie di Martin Isot, e poi andiamo avanti con il film di Daniele Gaglianoni, il film che ci rappresenta nella selezione ufficiale, La mia classe, fino a opere bulgare, molto cinema americano, L'atteso Kill Your Darlings, una collaborazione con il Tribeca, insomma non voglio farvi la guida monaci, sennò diventa anche noioso. Bene, insomma è un quadro molto ricco, direi, come primo avviso. Giorgio, con te vorrei parlare anche di alcune proposte che vengono dalle giornate degli autori. Non so se tu sei addentro a tutte le altre le altre manifestazioni che attraverseranno le giornate degli autori. Comunque ti chiedo, insomma, qualcosa rispetto... Tu prova, vediamo che cosa mi hanno detto i miei colleghi. A 28 volte cinema. E poi c'è anche da parlare, ci sarebbe anche da parlare dei film del decennio, del cinema al femminile per quanto riguarda Miu Miu, e poi gli incontri dell'ANAC, e poi le stellette, insomma, dici sono qualcosa. Preparato. Sei preparato? Sono allora preparato. Allora facci un po' il quadro. Nell'ordine, festeggiamenti per il decennio. Sì. Siamo tornati alla Villa degli Autori, e questo non gliene frega niente a qualcuno che non sia a Venezia. Comunque siamo tornati nella nostra casa madre, diciamo, ne siamo molto fieri. È venuto fuori un arredamento molto divertente, molto conviviale. Siamo sommersi di rosso Chianti della tenuta Castelfalfi, prosecco del Collio, vini bianchi delle Grave del Friuli, persino tre scene a base di cinghiale caratterizzeranno la convivialità delle giornate degli autori. Ma il vero nostro decennale noi ce lo festeggiamo sulla rete, nel senso che abbiamo deciso di rivolgerci a quel pubblico internazionale e italiano che spesso ha amato, voluto e scelto i film delle giornate degli autori, prima per chiedergli con una specie di referendum popolare quale fosse il film che per loro marcava questi 10 anni delle giornate. Segnalo che per i social networks ha vinto Incredibile ma vero, un film cileno di Matthias Bise, La vita dei pesci, che fu un grande successo effettivamente alla mostra qualche anno fa e che poi ha vinto anche il Goya per la migliore opera prima di lingua latinoamericana. E invece il film del decennio delle giornate degli autori, una specie di premio speciale della giuria, è il canadese Crazy di Jean-Marc Vallée, che è stato nel 2005 uno dei primi film che ci ha messo proprio in evidenza anche su scala internazionale. Poi il film è uscito anche in Italia con l'Istituto Luce Cinecittà. Tutto questo si vede a partire da ieri sulla piattaforma di mymovies.it, cioè i magnifici 10 del decennio sono trasmessi in streaming gratuito per una platea virtuale, come se fosse proprio un cinema in cui ci si va a sedere, due titoli al giorno. E sono molto contento perché tutti i produttori internazionali di film hanno messo a disposizione volentieri gratuitamente un passaggio del loro film, perché chi non li ha visti, chi ha voglia di rivederli, chi ne ha sentito solo parlare possa fare questa straordinaria cavalcata dalla donna che canta a Crazy, dalla vita dei pesci di Tinterra Pax, da Io sono lì a Keep Smiling, eccetera eccetera, fino a Zameti 13, che fu nel 2005 il primo Leone del Futuro, quindi il primo premio vero arrivato a una selezione delle giornate degli autori, era il premio per la migliore opera prima di tutta la mostra, il film di Gela Babluani. Bene. Seconda cosa che abbiamo fatto per festeggiarsi sul decennale: da oggi chi possiede un iPad può scaricare, anche questo gratuitamente, l'ebook, il primo ebook mai concepito per un festival di cinema, che racconta i 10 anni delle giornate degli autori. Si chiama Venice Days 2013. Tocca essere un pochino familiari con l'inglese, perché l'abbiamo fatto in edizione internazionale in inglese, ma lì dentro ci sono le storie, i personaggi, le foto, i video, i programmi, le recensioni, insomma il viaggio che noi abbiamo fatto attraverso il cinema indipendente di tutto il mondo nelle 9 edizioni scorse e in questa che è appena cominciato. Sì. Qui ti ho risposto su una cosa. Su una Poi, cosa. La seconda, 28 volte cinema. 28 volte 28 cinema. Volte cinema è un titolo misterioso, fino all'anno scorso tutto si chiamava 27 volte cinema, perché si tratta di un programma speciale del Parlamento Europeo, di Europa Cinema, che è la rete delle sale di qualità di tutta Europa, con il supporto di cineeuropa.org, che è il sito del cinema europeo, e delle giornate degli autori, per portare a Venezia 28 ragazzi, tanti quanti sono i paesi dell'Unione Europea, a vivere dal di dentro, come in una specie di campus universitario, una roba da Harry Potter, le magie di come si realizza un festival. Sono arrivati ieri, li ho incontrati per la prima volta stamattina, sono 28 davvero, vengono da Cipro e da Malta, dalla Latvia e dalla Serbia, dall'Inghilterra e dalla Francia, eccetera, eccetera, insomma tutti i paesi dell'Unione Europea hanno una media fra i 18 minimo e 27-28 massimo anni. Li conosciamo anche noi che siamo qui al cinema ogni giorno sul grande schermo della Sala d'Arsena, perché abbiamo realizzato una serie di cortometraggi in cui loro si presentano e si raccontano e fanno di tutto, rompono l'anima come loro mestiere per scoprire, incontrare i registi, andare a curiosare dietro le quinte delle conferenze stampa, andranno a parlare col direttore Barbera del Biennale College e poi parleranno con quasi tutti i nostri registi e con la Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Vedranno e discuteranno i tre film finalisti del premio Lux, che è il premio del Parlamento al film più europeo più importante dell'anno. Insomma, un gran casino, ma sono, come dire, il pubblico del futuro, quindi ci teniamo tantissimo a questa cosa. Bene. Ci si arriva per selezione, bisogna essere candidati da una sala cinematografica giro di Europa Cinema. E poi ci sono dei giudici severissimi che scelgono fra i vari candidati di ogni paese l'eletto. Bene. Cinema al femminile, cinema e donna. Oggi è la giornata di Miu Miu Women's Tales, la giornata della creatività femminile. È un programma che abbiamo cominciato un anno fa proprio con Miu Miu, che sembra una cosa così frivola, ma invece in realtà è una grande sigla della moda che si è messa al servizio davvero della creatività femminile, finanziando ogni anno e producendo ogni anno due film brevi, due cortometraggi in cui due registe diverse, con gusti, sensibilità, visioni del mondo diverse, raccontano la loro idea del femminile attraverso microstorie. Quest'anno le due registe che debuttano qui alla mostra oggi pomeriggio, fra un paio d'ore al massimo, sono Ava DuVernay, la prima regista donna che ha vinto un premio del Sundance, e Hiyama Bass, straordinaria attrice feticcio del cinema medio orientale, grande autrice palestinese. Noi abbiamo tenuto a battesimo con la sua opera prima l'anno scorso, che si chiamava Heritage, e adesso viene con un corto che ha realizzato, guarda caso, in Italia, si chiama Le donne della vucciria. Poi passiamo il progetto non è così soltanto facciamo vedere due corti, arrivederci, grazie. Sì, no, sì. Sono tre giornate dedicate all'idea, appunto, di una creatività femminile, che non vuol dire le quote rosa del cinema, vuol dire un altro modo di guardare il mondo. E quindi oltre a presentare questi due corti, oggi è il giorno di un film al femminile, è il film Nobody's Home di una regista debuttante turca. Domani sono in programma due grandi incontri sul tema della regia e il tema della produzione vista dal punto di vista delle donne. Dopodomani ancora un incontro su le interpreti, e poi un percorso che si costruisce anche su riflessioni, dibattiti. Lavoriamo con la 27esima ora di Corriere.it e quindi con le lettrici della 27esima ora, che discutono in un affollato forum degli stessi temi, e insomma ci pare che sia un modo per ricordarci che si può essere anche diversi al cinema. Poi ci sono gli incontri dell'ANAC, le associazioni degli autori. Ovviamente sono i nostri padroni di casa. Cento Autori e ANAC realizzano, in occasione della mostra, in occasione delle giornate, quest'anno una serie di programmi autonomi. L'ANAC ha messo in calendario il 3 e il 4 due momenti di riflessione, una dedicato allo stato di crisi del cinema italiano di oggi e a delle strategie creative per i necessari provvedimenti di rianimazione, cosa che la dice lunga su come si possa pensare che sia proprio necessario dare un vero elettroshock al cinema italiano per riportarlo in linea di volo. E dall'altra parte invece un incontro con la collaborazione anche di Articolo 21 della Fondazione Di Vittorio sulla concessione dello Stato italiano alla Rai TV come servizio pubblico. È una concessione che scade nel 2016, non è certo troppo presto per cominciare a interrogarsi su quale sarà il protocollo e il procedimento perché la Rai di domani sia davvero un servizio pubblico anche dal punto di vista di chi fa cinema e di chi racconta le storie. E chiudiamo, Giorgio, con le stellette. le stellette. Allora, le stellette a me piace molto, è invece un incontro promosso dai 100 autori in collaborazione con l'Associazione Italiana dei Festival, con il supporto dei due sindacati, dei critici e dei giornalisti cinematografici, e con la collaborazione anche nostra delle giornate, per dire: ma gli autori di oggi con che critica si misurano? Siccome la maggior parte della critica dinamica che segue il cinema attraverso i festival, che va a caccia delle scoperte, oggi vive e lavora sulla rete, è certamente diversa e segue logiche diverse da quelle tradizionali a cui anche i registi erano abituati. Apro il giornale e vedo se hanno parlato bene o male del mio film. Però è cambiato tutto, perché una volta, come dire, il critico era il riferimento del lettore e quindi anche spesso l'avversario o il primo sostenitore del regista. Oggi sulla rete c'è tutto e il contrario di tutto: c'è passione, specializzazione, competenza, anche però rumore di fondo, anche promozione diciamo commerciale del cinema, anche puro dibattito fra gli spettatori, blog e forum a non finire. E allora chi sta dall'altra parte al critico di oggi e chi sta dall'altra parte all'autore di oggi? Queste due categorie si devono poter misurare e stimolare l'una con l'altra. Noi proviamo a metterle insieme perché si conoscano meglio. E a margine ti dico, Giorgio, che io, sai, io scrivo anche recensioni di cinema, non ho mai messo stellette. Questo siamo in due, ma io sono molto contrario alle stellette e ai pallini, ma molti critici, anche della rete, mi dicono invece: no, è importante, perché è importante dare un'immediata sensibilità di quello che è un parere. La cosa più importante, ma anche più grave, è che le stellette spesso fanno media nel giudizio e quindi poi nel punteggio di un film. E sta a vedere chi le ha messe le stellette e come. Allora, Giorgio, è sempre un piacere con te, e a questo punto un abbraccio, e buon proseguimento, e ci sentiamo presto. Venite a trovarci, venite a Venezia, la Villa degli Autori vi aspetta. Ciao Giorgio. Grazie. Ciao. Arrivederci. Giorgio Gosetti, delegato generale della 10ª edizione delle giornate degli autori al Lido di Venezia da ieri 28 agosto fino al 7 settembre. Proseguiamo, questo è Visionari su Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15, anche se oggi andremo un po' oltre. Bentornato Vieri Razzini, ci sei? Grazie, buongiorno. Allora, Vieri Razzini di Teodora Film, per parlare dell'uscita in sala oggi 29 agosto di Foxfire. Lo diciamo perché c'è anche una polemica che accompagna questa uscita, vero Vieri? Ma insomma, la polemica è dovuta al fatto che in effetti la censura, che fa passare cose violentissime di tutti i generi, questo film già dato il 14 anni, non si capisce bene perché poi non c'è nulla di particolarmente violento. Sì. Però l'idea che ci sia una banda di ragazze che si ribellano già sono proprio i preodromi di un protofemminismo, se vogliamo, sono una banda di ragazze verso la fine degli anni 50 che decidono di ribellarsi alla prepotenza maschile, grosso, questo è il è così, e diventano poi, cioè, in parte come un piccolissimo fuoco, e poi diventa una vera e propria gang, ma non fanno azioni violente, diciamo, ecco, cosa un po' diversa. Siamo rimasti effettivamente molto stupiti. Cantè, che è il regista che conoscete, si è anche lui strabiliato, proprio, ha mandato anche delle parole molto, molto dure, ma molto precise, dicendo che comunque noi italiani, anzi i minorenni italiani, vengono trattati da imbecilli, mentre tutto il resto dell'Europa, il film è passato per tutti. E infatti noi veniamo, non so, tenuti a balia in una maniera veramente un po', tra l'altro, schizofrenica, perché io anche in televisione vedo della roba sanguinolenta, repellente, e quello passa. Io darei 18 anni a tutta quella roba lì, insomma, che ce l'avevo capito. Sì, io invece sono molto contento di questa uscita in sala. Ho avuto modo di vederlo in anteprima. È un film che mi è piaciuto molto e ritengo che Cantè sia uno degli autori importanti del cinema europeo. Non c'è dubbio, ricordo benissimo Risorse Umane, A Tempo Pieno, Verso il Sud, La Classe, insomma, non sbaglia un film. Ecco, qualche rispetto, Vieri, a questo Foxfire, ecco, diamo anche qualche nota, qualche suggestione critica rispetto proprio alla pellicola. Ma sai, suggestione critica, secondo me il film ha un doppio interesse, perché da una parte appunto c'è Cantè, che tra l'altro per la prima volta ha fatto un film in lingua inglese, quindi insomma c'è un cambio d'ambiente, il film si svolge in America ed è tratto da un romanzo di Joyce Carol Oates, che come sapete è una grandissima scrittrice, oltremodo prolifica tra l'altro, e in odore di Nobel da anni, forse non glielo daranno mai, ma insomma il Nobel è diventato un po' come l'Oscar, qualcuno lo vince, qualcuno no, che magari se lo meriterebbe, insomma, no? Sì. Quello che c'è di molto interessante è proprio anche l'ambiente, sono i personaggi, c'è questa, diciamo, giovanissima capobanda che è un tipo appunto, insomma, diciamo che è una vera ribelle piena di fosforo, insomma, e c'è l'ambiente, perché l'ambiente cambia, si parte dalla diciamo da è una cosa di inizialmente di ambiente proletario, piccolo borghese, con queste scuole della provincia americana, così, insomma, un po' lasciate andare come vanno, insomma, sì, no? Sì, scuole, sì, pubbliche, sì, eccetera. E poi si passa anche ad altri ambienti man mano che loro fanno questa loro specie di carriera, diciamo. Il tutto è visto con molta, da una parte, partecipazione, no? Ma non è una partecipazione stupida, cioè non è una cosa in cui si sbandierano dei principi, eccetera. È uno sguardo, come dire, abbastanza sereno, un po' come era nella Classe, no? Sì. La Classe non è che si parteggiava per il professore, anche qui molto, per qualcuno degli alunni, eccetera. Anche qui con grossa attenzione alle dinamiche di gruppo. Certo. E proprio quella è la sua grande forza, perché naturalmente poi all'interno del gruppo non è che ci sia un'armonia perfetta, ci sono diversi comportamenti, diverse opinioni su quello che si dovrebbe o non dovrebbe fare, eccetera. È un film molto interessante, molto coinvolgente. Sì. Bene, allora, da oggi nelle sale, in quante copie, Vieri? È una ventina di copie e vediamo un po' che succede, visto che poi, tra l'altro, vabbè, meno male che c'è internet, che c'è la radio come voi, eccetera, ma tutto il re, insomma, la stampa, quella su carta, è totalmente concentrata sulla kermesse veneziana, sì. E quindi i film che escono oggi sono senza recensioni, sicuramente penalizzati per la stampa, certo. Insomma, d'altronde il nostro provincialismo non ha fine, dunque dobbiamo fare. Vieri, allora, io sono contento di averti nuovamente ascoltato anch'io, oggi in radio, speriamo anche di farlo più di frequente durante questa stagione. Grazie mille. E a presto, allora. A presto, grazie tante. Ciao Vieri. Arrivederci, ciao. Vieri Razzini di Teodora Film sul film Foxfire di Laurent Cantè, in uscita oggi nelle sale, oggi giovedì 29 agosto. Con noi Bruno Oliviero, regista del film La variabile umana, anche questo in uscita oggi, giovedì 29 agosto. Bruno, ben ritrovato. Ciao. Ben ritrovato, perché noi ci eravamo sentiti almeno un paio di altre volte per tuoi documentari di cui abbiamo parlato volentieri in precedenza. Questa volta si parla di un lungometraggio di finzione. Intanto ti chiedo subito di questo passaggio. Mi viene sempre in mente una storia sugli hangar sugli hangar quando inventarono i primi missili negli Stati Uniti. Sì. Che gli costruirono intorno degli hangar come facevano con gli aerei per proteggerli, e dentro si producevano delle microtempeste, delle tempeste con i fulmini, e quindi era peggio per i missili. E un po' questo è il passaggio che si fa tra la finzione e tra il documentario e la finzione. Ti sembra di fare una cosa che sia solo, che abbia una dimensione più grande, ma invece ti trovi a fare una cosa completamente diversa. Sì, un altro lavoro proprio. Sì. Senti, a questo punto io ti dico anche che non ho avuto modo di vedere l'anteprima stampa, e quindi da spettatore curioso ti chiedo anche un po' di parlarci, di raccontarcelo in breve, questa storia di questo film. Sì, guarda, in breve racconta di un commissario di polizia che si ritrova a indagare su un caso di omicidio nel quale sono coinvolte delle ragazzine, una ragazzina almeno molto giovane, e lui ha una figlia che si presume sia della stessa età dell'assassina. Questo lo porta a conoscere il mondo della figlia e anche a conoscere la figlia poi ad un certo punto. È sempre molto complicato poi dire il proprio film di cosa parla, sì. Nel senso che diciamo, l'ambizione che io ho avuto facendo questo film è quello di lasciare quanto più spazio era possibile al pubblico, perché è un film fatto molto di come dire, c'è una ricerca sull'immagine molto forte, mm-hmm. e sul suono molto forte, sì. Allora le parti narrative sono un po' lasciate all'immaginazione del pubblico, mm-hmm. allora di cosa parla veramente è un po' complicato dirlo. Sì. Spero che un film che, come dire, una volta spente le luci in sala, ognuno possa seguire così in questo percorso che fa un uomo di 50 anni che è Silvio Orlando nella parte dell'ispettore Monaco, alla scoperta di una figlia adolescente. Senti Bruno, l'idea e il progetto dove sono partiti e quando sono partiti? Guarda, un po' tutto è nato quando, ad un certo punto, prima di tutti gli episodi che hanno coinvolto il nostro presidente del consiglio e le ragazzine, sono diventati poi un caso giudiziario che tutti quanti noi conosciamo. Prima c'era una specie di fierezza da parte dei genitori che accompagnavano i figli o lasciavano andare le figlie adolescenti a Villa Certosa piuttosto che a Villa San Martino, e questa cosa mi aveva molto colpito, come, diciamo, si era sdoganato completamente questa forma, diciamo, di sudditanza. E a un certo punto questo però, io ho cercato di invertire un po' tutti i ruoli che c'erano in questa storia. Un documentario in quel momento non mi sembrava possibile farlo su questa storia qui, e soprattutto non volevo lanciare dei messaggi moralizzatori che non mi interessano. Volevo semplicemente attraversare la complessità di questo rapporto strano che c'è tra un genitore di una ragazza che sta tra l'adolescenza e l'età adulta, e che la guarda crescere e che la guarda offrirsi anche a degli uomini maturi. E questo, volevo un po' percorrere questa cosa qui, mm-hmm. senza essere ideologico, in fin dei conti. Sì. Bruno, prima facevi, ecco, ci hai dato l'immagine degli hangar per spiegare questo passaggio. A questo punto ti chiedo, com'è stato l'approcciare e il vivere questa dimensione della finzione per te? Ma guarda, cioè, come dicevo prima, quando ho deciso di passare dal documentario alla finzione è stata per un'esigenza molto intima, cioè sì. Volevo passare al racconto dei sentimenti dei personaggi che sceglievo come, diciamo, testimoni della storia che volevo raccontare. E allora a quel punto, diciamo, visto che il passaggio era un po' obbligato per me, visto che le esigenze cambiavano, ho cercato di viverlo nel modo più sereno possibile. Pensando di trovarmi di fronte dei personaggi che avevo creato e facendomi aiutare molto dal cast che aveva un'esperienza molto più grande di me, Tra l'altro anche, quindi... anche teatrale, perché c'è, per esempio, ho visto nella presentazione anche Renato Sarti, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana per uno spettacolo teatrale. Sì, sì. E anche Arianna Scommegna, che è una grandissima attrice di teatro milanese, cioè nel cast. Sì, sì, io ho cercato di persone di esperienza, tranne la giovane ragazza Alice Raffaelli, che interpreta la figlia dell'ispettore Monaco, che è Silvio Orlando. Ho cercato persone di grande esperienza che potessero appunto dare uno spessore ai personaggi e soprattutto cercare di tirar fuori da quando tu dici la cosa teatrale. Io avevo molto amato sia Beppe che Silvio nelle cose teatrali che facevano, che sono un po' diverse da quelle che sono abituati a fare al cinema. Mm-hmm. Allora ho cercato di lavorare su quelle corde lì. Sì. Tanto che Silvio e Beppe e Sandra, ma io dico soprattutto Silvio, perché è Silvio che è quello che si è trasformato di più per il mio film. È veramente uno spettacolo vedere nel mio film Silvio Orlando che cosa è capace di fare come attore drammatico. Mm-hmm. Senti Bruno, da oggi nelle sale in quante copie esce La variabile umana? Beh, una novantina. Che mi sembra un come no una bella notizia per un esordio. Sì. Bene, a questo punto quindi un po' tutti possono vederlo, diciamo, non certo. Ci sono scuse. A Roma mi sembra che è in 9 sale, per cui si trova. Tutti ci hanno una sala vicina oggi. C'è il sole, peccato questo. Bene. Però vedo delle nuvole qui adesso, sono in strada al ghetto e vedo delle nuvole. Ci sono le nuvole. Speriamo che piova, ecco. Bruno, io ti abbraccio, a risentirci. Grazie presto. Grazie molto Federico. Ciao. Bruno Oliviero, regista del film La variabile umana, in uscita oggi in sala, giovedì 29 agosto. Proseguiamo. Per contattarci, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e su internet siamo sia sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, che su Facebook, sempre con Visionari. In collegamento con Valerio Pileri, co-sceneggiatore del film Senza Pace, in programmazione qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, fino al 4 settembre. Valerio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto, grazie a voi. Fino al 3 settembre, in realtà. Fino al 3. A mercoledì, spettacolo delle 8:30. Benissimo. Allora, io ho avuto modo di vederlo, sono venuto al Cinema Aquila, mi sono anche divertito, visto, sì. E cinematografo Poverania, tra l'altro, sono vecchie conoscenze, insomma, li seguiamo nel corso del tempo per tutte un po' le loro avventure. E raccontaci di questa. Dimmi, dal 2008 c'è Cinematografo Poverania, senz'altro. Eh sì. Raccontaci di questa di avventura, come nasce questo film? Beh, questo film dunque nasce sotto l'ombrello, come al solito, del Collegio di Artisti Cinematografo Poverania, che appunto, come ho detto, è un progetto che nasce nel 2008, quando diventa evidente che il digitale distrugge finalmente tutta quella serie di possibilità prima impensabili di realizzare lungometraggi, effetti speciali, e superare quindi le barriere all'entrata delle opere cinematografiche, insomma, che richiedono importanti risorse finanziarie oppure devono essere assistite, insomma, rendendo invece popolare la possibilità di esprimersi col mezzo cinematografico con risultati più che soddisfacenti. Infatti siamo arrivati al cinema in sala, in qualche modo. Questa è la nostra, diciamo, terza esperienza, insomma, in cui abbiamo, diciamo, fatto un po' tesoro delle esperienze precedenti e insomma abbiamo diciamo, con la collaborazione appunto, insomma, di tutti gli artisti che, diciamo, fanno parte di questo collegio che, diciamo, opera insieme a noi, tentato sono avventure questa realizzazione a cui poi ne seguiranno altre, perché insomma, diciamo, Cinematografo Poverania, diciamo, è riuscito a creare magari nel tempo, insomma, questa estetica, diciamo, basata prevalentemente sulla creazione di valore attraverso la creazione di relazioni e collaborazioni artistiche e condividendo competenze di provenienza più varia su lavori sperimentali e quindi da un lato si è iniziato su un percorso realizzativo in cui rientra appunto questo film qui Senza Pace, e dalla felice diffusione attraverso piccole rassegne, festival, partecipazione a Venezia, perché anche noi siamo andati a Venezia anni fa, intorno nel 2010, nell'ambito di un'esperienza presso Zona Bandita, uno spazio sociale autogestito, dove abbiamo portato questi film zero budget. Sì, sì, ricordo. Esatto, infatti. Senti Valerio. Erano nella nostra rassegna, dimmi. Allora, Bianco e Nero, un film girato in un luogo chiuso unico e qualche esterno. E qualche esterno, realizzato praticamente a budget zero con molti effetti speciali. Raccontaci un po', ecco, di questo complesso. Sì. No, dunque, sì, per esempio, budget zero, tutto realizzato bianco e nero per dare, diciamo, un'idea del tutto non naturalista del film, per evitare qualsivoglia sentimentalismo dal momento che per la prima volta affrontiamo l'idea di un tema su una relazione in qualche modo. E sì, è realizzata appunto praticamente contro tutte le regole del cinema, insomma, qui praticamente quando abbiamo girato tutte le regole sono state in qualche modo campo contro campo, master, insomma, qui non abbiamo neanche il campo, noi giriamo praticamente su uno sfondo verde dove facciamo muovere i nostri personaggi come dei pupazzi e poi riempiamo lo sfondo dei cinemi necessari, diciamo, alla narrazione. Non ci sono neanche, diciamo, i piani, in qualche modo alcuni oggetti proprio non esistono, non sono mai stati ripresi, sono tutti effetti speciali realizzati dopo ad hoc, insomma, rispetto a quello che ci serviva per la narrazione. Tutto questo è meglio del digitale, che appunto, insomma, ci dà una grande libertà di espressione, una grande libertà sia di realizzazione ma anche di poter dire in qualche modo quello che ci pare, finalmente, senza avere problema né della produzione e neanche della distribuzione, perché poi ce lo distribuiamo nelle multiforme modalità che appunto il digitale permette, insomma, dal circolo Arci alla pizzeria al canale streaming, e adesso siamo in sala e quindi questo ci rende particolarmente contenti, diciamo così, ecco, infatti. Valerio, un film che nasce al Pigneto, realizzato lì, ecco, quale esce fuori secondo te un po' lo spirito di questo quartiere che, insomma, è sempre più meta, insomma, di movida, chiamiamola così. Guarda, secondo noi esce, insomma, diciamo, i nostri personaggi in qualche modo ci hanno, diciamo, come dire, insomma, vivono un bel po' di impasse, insomma, o sfighe, come si può dire, insomma, se si può dire in radio, insomma, che sono senz'altro nostre, ma senz'altro anche delle persone che ci stanno un po' intorno a noi, e siamo convinti che anche il pubblico, insomma, ci viene a vedere, le condividerà, eppure in gran parte ci si può riconoscere. Il quartiere c'è, perché poi, insomma, è tutta una serie, diciamo, di tic che vengono rappresentati di questa ormai non giovine Italia, ma insomma a volte neanche troppo giovane in qualche modo. e poi i luoghi sono quelli, il milieu intellettuale culturale è quello, ma anche i personaggi poi che agiscono nel film poi sono quelli, insomma, perché poi questo collegio alla fine, insomma, è stato tutto raccolto e si è raccolto attorno a questo progetto, insomma, nell'ambito di questo quartiere laboratorio, dove appunto tutte le figure professionali, insomma, si incontrano e partecipano anche spontaneamente ai progetti, attori, musicisti, registi, scrittori, insomma, gli sceneggiatori, e quindi, diciamo, sì, c'è sia nella rappresentazione sia poi proprio nell'effettiva novero, diciamo, delle figure che hanno collaborato. Quindi, diciamo, sì, io direi che è rappresentato. Sì. È rappresentato, però, insomma, non è secondo noi è un film che poi si può vedere anche al di fuori del Pigneto, cioè cerchiamo di mettere in piazza situazioni di vita di cui da anni non riusciamo a vederne a capo, noi, credo, come tu, come molti altri, insomma, sì, in qualche modo. Fatto questo è. Per chi risulta incuriosito dalle tue parole, come daresti qualche traccia di trama in breve? Ma io non saprei, insomma, io per dare una traccia di trama, insomma, ripeto, forse cosa potrei dire, insomma, che i nostri personaggi cercano in qualche modo di fare una vita, in qualche modo vengono da due vite non riuscite, in qualche modo sono dei personaggi che si incontrano qui nell'ambito di questo quartiere e di nuovo, insomma, purtroppo mettono nella loro nel loro incontro, tutta una serie di implicazioni, a volte un eccesso di autostima, insomma, a volte che poi è alla base di quella infantile sede di potere che ci tormenta e ci avvena un po' a tutti quanti la vita, insomma, di cui speriamo con loro, insomma, di liberarci tutti quanti al più presto per avere una vita più carina, più libera e più interessante, insomma. Quindi diciamo che, ecco, questo è il problema, insomma. Questo film è, qualcuno ci chiede se è contro qualcuno o qualcosa, insomma, probabilmente è bonariamente contro tutti noi e i condizionamenti, insomma, che anche in una relazione da soli introduciamo nelle nostre vite facendole sbandare, perché poi siamo mirati a voler dominare forse le situazioni, però con un'idea non sempre accogliente, insomma. Ecco, però a quel punto, quando capiamo questo e quando tutto sembra perduto, diventa chiaro però a loro e forse anche a noi che in realtà nulla è perduto. C'è qualcuno che dice, si potrebbe dire che abbiamo due vite, non so se c'entra molto con il film, la seconda inizia quando capiamo che ne abbiamo una sola, per esempio, insomma. Non so se è proprio il caso, il caso dei due nostri personaggi, però alla fine, insomma, diciamo nel disastro, bah, insomma, qualcosa c'è, ecco. Bene. Insomma, questo è quello che volevamo dire. Bene, Valerio, allora ricordiamolo, al Nuovo Cinema Aquila fino al 3 settembre, mercoledì 3 settembre, in rete. Sì. C'è qualche informazione da qualche parte? C'è un sito internet proprio del film? Sì, c'è la pagina Facebook Senza Pace, e uno va lì e trova tutti quanti, diciamo, okay, i riferimenti. E sì, siamo al Cinema Aquila fino al 3, allo spettacolo delle 8:30, insomma, che è comodo, così avere qualcosa al Pigneto che fa fuori molto moda e movita. Un abbraccio, Valerio. A risentirci presto. Va bene, ciao. Ciao. Piacere, grazie, ciao. Valerio Pilerico, sceneggiatore del film Senza Pace. Ma senti un po', Anna Maria Pasetti in collegamento telefonico, ci sei da Venezia? Ci sono da Venezia e saluto tutti gli ascoltatori a cui sono molto affezionata, essendo stata una paravoce di Radio Onda Rossa Visionari. Oh, e io sapevo che sarebbe arrivato questo momento, perché tu ormai sei un personaggio importante, insomma. Dove, scusa, mi sto guardando dietro, dov'è il personaggio importante? Perché, insomma, sei una delle persone che si è occupata della selezione delle opere presentate a questa 28ª edizione della Settimana Internazionale della Critica al Lido di Venezia. Sì. È cominciata ieri 28 agosto fino al 7 settembre. Parlacene un po', Anna. In realtà l'inaugurazione è stata proprio oggi, nel senso, è ancora in corso la proiezione del primo film. Sì. Che è inaugurato per il pubblico, appunto la 28ª SIC. Io parlo indebitamente perché sono sicuramente in selezione con altri tre colleghi, ma il nostro capo, il nostro delegato generale è sempre Francesco Di Pace, che tu avevi già sentito diverse volte, credo che ogni edizione tu senta lui, quindi io in questo momento credo di fare le veci di, no? Però, insomma, quantomeno una voce femminile che in questa puntata, per esempio, mancava. Ecco, allora faccio anche questo. Bene. Allora sì, dunque, intanto siamo alla nuova selezione, che è composta anche da Nicola Falcinella, che tu ben conosci. Come no, anche lui è stato un visionario. È un altro visionario. E che cosa ti devo dire? Abbiamo 9 film, 2 eventi speciali, uno in apertura che è appunto in corso adesso, e uno in chiusura che si terrà il 6 settembre, e 7 film in concorso, opere prime che vengono da tutto il mondo, con una particolare insistenza casuale sul Cile. Infatti ben 2 film vengono dal Cile. Uh-huh. E questo proprio perché è una testimonianza al fatto che non è che cerchiamo per territori, ma ci guardiamo i film, quelli che ci piacciono, che vogliono venire da noi, possono appunto anche riprendere lo stesso paese 2 volte e noi li invitiamo, insomma. Certo. Cosa vuoi sapere in particolare? No, più che altro in generale, più che in particolare, visto, insomma, queste opere che presenterete, se ti sei fatta un po' un'idea, esce fuori un po' una linea. Sì, in qualche modo, o comunque, e quali sono le storie, se ci sono storie che ricorrono più di altre, dei temi forti. Ma guarda, di fondo si tenderebbe sempre a cercare il come si racconta cosa, perché il tema non fa il film, sicuramente senza un tema non c'è un film, però bisogna sempre stare attenti a non cadere nell'inganno che un tema forte poi può tradursi, no? In qualche cosa di formalmente equivalente. Noi abbiamo trovato delle storie ben raccontate e da questo buon racconto è uscito anche qualche tema forte. Detto questo, la linea comune che io trovo, a parte il Cile, che è appunto divertita in Italia perché abbiamo ben due film italiani, è di una maturità di sguardo, perché anche se sono tutti esperienti, io non mi aspettavo di trovare una consapevolezza del mezzo, del profondità appunto di sguardo come quella che ci abbiamo trovato e che quindi abbiamo selezionato. Quindi posso dire che ci sono film che trattano davvero di tutto, per esempio un film che viene, che è Apolide, anche questo è interessante, no? Di un regista nato a Tel Aviv ma che non si sente né israeliano né palestinese, ha scelto la Polidia, vive tra Berlino e Los Angeles, è andato in Tanzania, ha trovato una storia che riguarda il massacro della popolazione albina, che è una cosa abominevole, che viene perpetrato dai medici stregoni tanzanesi, che vanno e massacrano gli albini e poi prendono gli organi e fanno delle pozioni magiche. Ecco, una cosa che sembra fuori dal mondo, in realtà è mondo. No, tra l'altro è una questione che sta avendo sempre più attenzione tra libri, documentari e film. Mi sembra, insomma, che il caso stia emergendo negli ultimi anni. Sì. Adesso ho tirato fuori questo film proprio perché si chiama White Shadow, che vuol dire ombra bianca. Sarà presentato il 2 settembre, appunto, per dire un tema forte che abbiamo trovato, però non l'avremmo preso se non fosse stato altrettanto potente l'impatto visivo, emotivo, che no, lo sguardo di questo Noah Desch, che chiama il regista, ha potuto veicolarci. Sì. Poi abbiamo un film cileno che è veramente notevole, in concorso, uno dei due cileni, si chiama Las Niñas Quiste, che vuol dire le ragazze Quispe, Quispe è il cognome, è una storia vera, ambientata nel Cile del 74, quindi siamo in piena dittatura, con un momento di espropriazione dei terreni, tre le donne che vivono sull'altopiano cileno, vivono di pastorizia, di insomma allevamento, cose così, e si trovano a un certo punto sole, perché tutti i loro più o meno figli abbandonano il Cile e si recano in altri paesi dell'America Latina, scappano, lasciano tutto, loro stanno da sole, devono capire se lasciare il paese o rimanere, resistere, e fanno una scelta estrema. Questa scelta divenne un fatto di cronaca che suscitò l'opinione pubblica cilena dell'epoca, se ne parlò molto, e un regista esordiente appunto ne ha fatto un film meraviglioso, devo dire. Lui si chiama Sebastián Sepúlveda e non è parente di Sepúlveda, è stato prodotto dai fratelli Larraín, tra cui Pablo Larraín, che sappiamo benissimo essere il regista della trilogia sulla dittatura, no? No, è l'ultimo dei film della sua trilogia, vincitore di premi, eccetera. Sì. Insomma, quindi abbiamo degli esponenti anche di rilievo e siamo ben felici, però non abbiamo solo cose di fatti cruenti come questi, ci sono anche per esempio dei film molto sperimentali, no? Tipo lo svedese dell'artista Anna Odell, che è molto controversa in patria, una che è diventata famosa perché ha simulato un suicidio davanti a tutte le persone come performance, che ha fatto il suo primo film ed è un film che lavora molto sulla mistificazione della realtà, sull'inganno, mette se stessa in scena con i suoi compagni di classe, è un film che sembra sette ma poi diventa qualcos'altro, e questo appunto anche si chiama La Riunione, in tradotto in italiano. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti. Abbiamo un film cinese che è stato censurato in patria perché è appunto dissidente, che va benissimo, no? Visionari. Non ci siamo fatti proprio mancare niente, vediamo come risponderà il pubblico. Poi c'è da dire che l'italiano in concorso, di cui siamo molto fieri, si chiama Zoran e mio nipote scemo, con un Giuseppe Battiston strepitoso protagonista assoluto, ed è una commedia ambientata tra Friuli Venezia Giulia, tra Gorizia e la Slovenia. Beh. È infatti una coproduzione italo-slovena e vabbè, sarà, vedremo come saranno accolti. Bene. Anna, io allora ti abbraccio, buon proseguimento per quanto riguarda questa trasferta veneziana, risentirci presto. Assolutamente, un abbraccio a tutti, a te Federico, e buona continuazione di trasmissione. Ciao. Ciao. Anna Maria Pasetti, una delle selezionatrici della 28esima edizione della Settimana Internazionale della Critica al Lido di Venezia, da oggi 29 agosto fino al 7 settembre. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Massimo Vattani. Ben ritrovato. Non ci sentiamo. Da giugno, stavo ricontrollando, è da giugno, dai, non ci lamentiamo. No, eccoci qua. Tra l'altro sentivo anche questa sigletta in sottofondo, quindi eri all'ascolto. Assolutamente sì, diciamo, come ti ho detto mille volte, io prendo anche sempre molto spunto dagli ospiti che inviti. Ah, che bello. Una serie di documentari che sfuggono, ma lo sai, non fai Allora, oggi sarai l'ultimo, ma ce la possiamo prendere molto comoda, quindi ce la godiamo. Con te per parlare di un documentario che sei riuscito a portare in programmazione, quindi anche la seconda volta oggi che si parla di nuovo Cinema Aquila, perché sarà in programmazione lì da oggi, 29 agosto, fino al 4 settembre. No, fino all'11. Ah, fino all'11. Sì, abbiamo deciso di dare due settimane di programmazione. Bello. Buono. Allora, Searching for Sugar Man, Massimo, sì. Raccontaci un po' di questo lavoro. Beh, intanto diciamo la cosa interessante è che nell'apertura della stagione 2013-2014, oltre a programmare, ad anticipare, anche a pensare a quello che sarà il futuro del documentario italiano, che è una componente oramai ineluttabile, insomma inevitabile da poter affrontare, visto il successo della questa iniziativa che io chiamo pilota e che oggi fortunatamente ha trovato accoglienza in altre città italiane, e quindi aumentando le sale cinematografiche che sono disponibili a proiettare documentari, mi riferisco al contest, diciamo in qualche maniera lasciava un po' una porticina aperta da esplorare ancora di più, e mi riferisco al documentario internazionale, per cui questo primo appuntamento che abbiamo definito da Oscar in qualche maniera anticipa quello che sarà una sezione dedicata al documentario internazionale, di cui ancora i contorni non sono ben chiari, ma che in conseguenza di una serie di collaborazioni, in questo caso col Biograph Film, che sta facendo un ottimo lavoro, e continueremo sicuramente non solo con loro ma anche con gli altri, questa sezione di documentari internazionali appunto, che prevede oggi come prima proiezione questo il documentario che ha visto l'Oscar 2013, Searching for the Sugar Man di Malik Benjellou, fra l'altro un'opera prima, che ha anche girato un po' qui a Roma nell'ambito delle alcune areme, fra cui il San Marchino, che ha dovuto moltiplicare le sue proiezioni, ma diciamo è il bacino di utenza, diciamo per le cose belle è un bacino d'utenza infinito in questa città, e per cui diciamo anche l'esordio al cinema in qualche maniera mi e ci inorgoglisce moltissimo. Direi che insomma è uno dei quei documentari che si ascrive diciamo in quel lavoro di ricerca che prende spunto da una diciamo un elemento nuovo che si è realizzato negli ultimi anni e che credo sia anche un po' conseguenza dei tempi. Mentre prima si affrontavano temi generali, come per esempio da noi ha funzionato molto sul Novecento, da narrare, da trasformare in documentario o in film, oggi credo che questa cosa sia leggermente mutata e si punti più alle esperienze personali, alle storie personali, e credo che non sia una riduzione, un livello che potremmo definire di serie B, ma appunto credo che anche attraverso le storie personali si possa comprendere meglio quali sono i meccanismi che governano questa società globale. La storia è semplice, la storia di Sixto Rodriguez, un musicista diventato famoso a sua insaputa e diventato famoso appunto in un paese diverso da quello d'origine, praticamente sconosciuto negli States, e invece quasi una bandiera della lotta nell'apartheid nelle Sudafrica, in particolare la città del Capo, durante appunto gli anni più estremi e più aspri di questa grandissima battaglia di vendetta che il popolo sudafricano ha affrontato negli anni. Credo anche che, diciamo, ci sia una capacità intrinseca, è un'opera prima, quindi penso a questo regista che ha incontrato questo soggetto e ha avuto la fortuna e la capacità di interpretarlo nel migliore dei modi e confezionarlo in questo documentario, che, diciamo, è inutile che io mi esprima per quello che ho visto io, ma insomma certifico e verifico che viene considerato un documentario eccezionale, come capita diciamo in precedenza raramente, oggi in maniera più frequente, che merita appunto tutto lo spazio possibile. Prima ti ho anticipato, diciamo, come questa possibilità sia dovuta a un elemento assolutamente da sottolineare. Tu sai come questi documentari importanti siano sempre stati bloccati da meccanismi legati a una distribuzione che hanno veramente poco interesse a distribuire i documentari. In questo vorrei segnalare appunto il lavoro di Andrea Romeo e dei suoi collaboratori del Biogram Film, che sono riusciti a realizzare una sorta di co-distribuzione del film, in cui hanno veramente molto le mani libere, ma credo anche conseguentemente al successo che in Italia ha questo film e sono sicuro che avrà. E questo tipo di distribuzione mi fa felice, uno perché mi consente di portare a Roma questo film, ma anche di poter vedere appunto il futuro un po' più roseo in termini di distribuzione. Ecco, io stavo pensando a quest'idea del documentario in sala, e se ultimamente succede anche più di frequente che i documentari per lo più italiani arrivano nelle nostre sale, ancora poche, però comunque riescono ad arrivarci, per quelli internazionali colpa anche probabilmente del provincialismo che ci caratterizza, non c'è modo. Volevo chiederti, Massimo, ecco, rispetto a questa prima tappa per quanto riguarda questa stagione, hai fatto riferimento al Biografilm. Quali saranno i criteri, almeno per quanto riguarda la tua esperienza al Cinema Aquila, di selezione? Continuerai a collaborare con il Biografilm, oppure hai già stabilito quali saranno un po' dei criteri di scelta dei lavori? Ma guarda, noi in questo periodo, in conseguenza di questa nuova relazione preparata da tempo, devo dire, partita inizialmente attraverso la Cineteca di Bologna, anzi l'idea era quella di realizzare una sorta di festival di conseguente a quello di Bologna che riguarda appunto il cinema restaurato. In considerazione di questa, Bologna è una città attualmente molto viva, che ha saputo realizzare rispetto al cinema e ai documentari un lavoro serrato e di cui oggi in qualche maniera un po' tutti noi ne godiamo le conseguenze, e quindi, diciamo, in questi giorni abbiamo appunto definito, intanto, diciamo, abbiamo consultato il loro listino, che è un listino importante che prende appunto da una serie di documentari ancora non distribuiti, ma per esempio segnalo anche che molti sono distribuiti da Officine Ubu, che si caratterizza appunto come per un lavoro di ricerca e non prospettando soltanto questi polpettoni o queste cose che magari attirano per un momento, ma alla prova della lunga programmazione poi stentano a garantire una presenza in sala. Per cui, diciamo, i riferimenti per mettere in piedi una rassegna di documentari internazionali, intanto, diciamo, parte da una considerazione che è quella che affrontavi tu nel farmi la domanda. Diciamo, uno dei problemi che ha riguardato appunto la difficoltà di organizzare rassegne di documentari internazionali è legato sicuramente ai costi della sottotitolatura. Ora, sì, evidentemente tu, sì, potrai comprendere bene come uno degli elementi principali per cui i pochi gestori di cinema che si dichiarano disponibili a proporre questo tipo di cinema, definiamolo così, alternativo per intenderci, diciamo, hanno sempre un problema di incassi, e quindi quando tu hai un lavoro iniziale come per esempio ha rappresentato Contest, che oggi gode ovviamente di un'altra accoglienza e cammina un po' più sul velluto di quello che si verificava 3 anni fa, e appunto una cosa è legata all'abbassamento dei costi. È anche in questo caso che quando tu intervieni come un festival italiano, come in questo caso l'attività del Biogram Film e entri nei meccanismi di distribuzione, azzeri questo costo e consenti anche agli esercenti o coloro che lavorano appunto per portare questi lavori al cinema, diciamo, di intervenire in maniera più decisa, cioè quello che sembrava impossibile un mese prima diventa possibile un mese dopo. Quindi diciamo oggi c'è prima di tutto una grande quantità di documentari internazionali di livello che appunto hanno la sottotitolatura in italiano e quindi tu azzeri un costo che è assolutamente importante, proprio perché questo tipo di rassegne ha bisogno di un periodo di rodaggio e questo periodo di rodaggio devi essere fortunato a trovare un gestore che lo sostiene, perché altrimenti stanno tutti quanti col fucile puntato se il film non incassa. Per quelli che sono assolutamente solamente interessati all'aspetto economico, diciamo, trovi un ostacolo insormontabile. I criteri appunto saranno questa collaborazione con Biogram Film, altre collaborazioni che sono all'ordine del giorno e poi la visione dei festival internazionali, e fortunatamente oramai le segnalazioni che arrivano anche senza andare nei festival. Il criterio è un po' questo, è un po' quello che anche negli anni passati, tu sai benissimo, abbiamo realizzato per organizzare altre cose. Certo. Allora, ricordiamolo, Searching for a Sugar Man al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma da oggi 29 agosto fino all'11 settembre. Intanto ho corretto già in tempo reale sul sito internet della radio la data dell'11 settembre, ora è quella, per cui aspettiamo a questo punto prossimi appuntamenti. Massimo, nel frattempo un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie Grebi, grazie come al solito del sostegno. A presto. Saluto Federico, buona ciao, cosa. Ciao. Bene, Massimo Vattani, e con lui chiudiamo la puntata di questa settimana dandovi appuntamento a giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@landarossa.info per quanto riguarda i siti internet, sia sul quello della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e poi su Facebook con la pagina Visionari. È tutto, alla prossima settimana, buon proseguimento.